Italia in controluce. Che lei insomma si rende conto della situazione. Che cosa vuole? Ma male, gli avvocati ci sanno dire quello che deve fare avvocato. E se lo può fare. E dopo noi altri ci rivediamo, lo vengo a salutare di persona. Sarebbe ora. Va bene? Va bene? E vengo con una bella busta. No, perché io... così ci guadagniamo. No, io... Come avvocato? No, dico, non c'ho niente da guadagnare. Va bene, che io lo vedo, non è una persona a posto, per cui io non mi sento, diciamo, di poter fare, ma lei sappiamo, sono sicuro. Sono fregato. Vabbè, senta, ci sentiamo domani dopo aver parlato con Guzzi. Arrivederlo. Grazie di nuovo. Era la voce di un mafioso che minacciava un eroe borghese chiamato Giorgio Ambrosoli. Era poco prima dell'11 luglio 1979, quando un killer della mafia italo-americana uccideva Ambrosoli, che era il liquidatore della banca privata del finanziere di Cosa Nostra, Michele Sindona. Accadeva in Italia, Ambrosoli girava senza scorta, era minacciato dai mafiosi, come avete sentito in questa telefonata, di questa vera telefonata. Nessun uomo dello Stato si presentò mai ai suoi funerali. Che cosa resta della sua memoria? Lo chiediamo anche a voi, 349-238-6666. Cosa resta del sacrificio di un eroe borghese, se avete visto il film, se avete letto il libro di Stagliano? A Giorgio Ambrosoli sono state dedicate piazze, strade, scuole, monumenti, film, libri, e poi l'Associazione Civile Giorgio Ambrosoli, fondata dal figlio Umberto, pure lui avvocato, con alcuni milanesi. E stasera a Milano, al Teatro Dal Verme, in programma il concerto civile Giorgio Ambrosoli, dedicato al 30° anniversario della morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa. In studio con me a ricostruire la figura di Ambrosoli, Maria Luisa Pezzali. Buongiorno Daniele, buongiorno agli ascoltatori. Ricostruiamo allora la figura di Giorgio Ambrosoli proprio a partire da quella sera dell'11 luglio 1979. Ambrosoli stava rincasando dopo una serata con amici, parcheggia sotto casa un'auto, si accosta. Così la ricostruzione nel film di Michele Placido, che hai citato poco fa Daniele, tratto dal romanzo di Stagliano. Signore Ambrosoli? Sì? Mi scusi, signore Ambrosoli. Il killer è William Arricò, killer arrivato dagli Stati Uniti, ingaggiato con $25,000 in contanti, altri $90,000 con un bonifico su un conto bancario svizzero dal finanziere Michele Sindona, che venne poi condannato all'ergastolo per l'omicidio. Giorgio Ambrosoli era stato nominato commissario liquidatore della banca privata italiana, cuore dell'impero di Sindona, nel 1974 dal governatore della Banca d'Italia Guido Carli. L'avvocato non fece sconti a nessuno, alla DC di Andreotti, al Vaticano, alla mafia, alla massoneria, a quella P2 di Licio Gelli, che fu scoperta solo parecchi anni dopo. Non si fece mai intimidire, completò il suo lavoro nonostante i tentativi molteplici di corruzione, gli avvertimenti, le minacce, come abbiamo sentito nel file di apertura. Ambrosoli confermò la necessità di liquidare la banca e di riconoscere la responsabilità penale del banchiere. Il 12 luglio 1979, il giorno dopo il suo omicidio, Ambrosoli avrebbe dovuto sottoscrivere la relazione conclusiva della sua inchiesta. Ecco che cosa Ambrosoli disse di Sindona nel 1978 in questa intervista d'archivio. È stato l'uomo che, proprietario della banca e animatore della banca, l'ha portata nel giro di pochi anni a diventare una delle più grandi banche private italiane. Si è visto che questa grossa dimensione che aveva ottenuto la banca privata finanziaria, la Banca Unione, nascondevano in effetti operazioni tali per cui si era consumato il patrimonio e si è arrivati a un deficit di 150 miliardi. Ed ecco invece che cosa disse Sindona di Ambrosoli. Uno che non conoscevo assolutamente e che quando ho dovuto attaccare l'ho regolarmente attaccato su tutti i giornali, scrivendogli direttamente come a mia abitudine. Mi spiace perché è morto, ma io non sono l'ipocrita della gente che quando la gente muore diventa un santo. Ambrosoli ha sbagliato, Ambrosoli non era completamente competente, ma da questo ai problemi di violenza passa tanta strada. A 40 anni di colpo ho fatto politica e in nome dello Stato non per un partito, scrisse Ambrosoli alla moglie in una lettera poi resa pubblica, quasi un testamento spirituale in cui l'avvocato si dice perfettamente consapevole di dover pagare con la vita il suo incarico e il suo operato. Daniele. Resta un esempio mirabile, Ambrosoli, senza sufficienti riconoscimenti ufficiali, scrive un nostro ascoltatore alla 349-238-6666. Siamo in diretta con Umberto Ambrosoli, a cui chiediamo subito perché un concerto come quello di stasera per ricordare. Perché è un momento di raccolta dove le emozioni vengono accompagnate e rafforzate dalla musica e si ha la possibilità di concentrarsi un pochettino sulla memoria di questa città, di questo paese. È la quarta edizione del concerto, quest'anno la memoria nel nome dell'associazione dedicata a mio padre è rivolta a Carlo Alberto Dalla Chiesa, a sua moglie e all'agente russo nel 30° anniversario del loro sacrificio. Cosa resta dell'eredità del lavoro di suo padre? Non soltanto libri, film, ma anche piazze, vie e poi un modo anche di operare il suo a difesa della legalità. Guardi, secondo me quello che resta è nel cuore delle persone, di quelli che hanno voglia di approfondire un pezzo della loro storia o di conoscere un momento della storia del nostro paese che non hanno vissuto, e approfondendolo e conoscendolo arrivano a capire quello che è il ruolo possibile per ciascuno di noi per vivere un momento di virtù civile. Giorgio Ambrosoli era stato lasciato solo dallo Stato, senza scorta, minacciato. Abbiamo sentito in apertura le telefonate drammatiche dei mafiosi al telefono. Lei ha dedicato alla storia di suo padre anche un libro che è andato molto bene. Da quel momento è andato in giro per l'Italia a raccontare la storia di suo padre e lo ha fatto anche e soprattutto rivolgendosi ai più giovani. Certamente c'è bisogno di rappresentare a chi non ha avuto la possibilità di incontrare ragioni cronologiche, magari anche solo per ragioni cronologiche, quell'esempio di vita. C'è la possibilità di raccontargli un modo di intendere la responsabilità, un modo cioè veramente di interpretare il significato della propria esistenza. Lei fa riferimento alla solitudine. La solitudine spesso è letta oggi come alibi. In quel caso non è stato così e in tanti altri casi non è stato così. L'esempio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ha, da questo punto di vista, per gli ultimi 100 giorni della sua vita un'analogia molto forte. La solitudine, neanche la solitudine, è capace di, o perlomeno ha la forza di far deflettere le persone dal vivere appieno la propria responsabilità. La solitudine può anche essere, paradossalmente in certi momenti, quando si constata il degrado della società, un momento di rafforzamento dei propri convincimenti. La storia di mio padre ci dice questo, ci dice soli o non soli, sappiamo comunque qual è l'occasione per distinguere il bene dal male e interpretarlo senza eroismi, senza volontà di protagonismo, semplicemente per essere le persone che desideriamo essere. Le mafie però non sono state sconfitte, anzi oggi magari Cosa Nostra sembra leggermente più sott'acqua, ma l'Andrangheta resta uno dei pilastri del malaffare nel nostro paese. Certamente è così, e non solamente nei territori dove questi fenomeni sono nati e si sono consolidati con maggiore forza nel tempo. Le mafie, tutte le mafie, sono l'insidia del nostro tempo, forse la più grave per la nostra convivenza civile in paesi democratici come il nostro. Le mafie sono un fenomeno però legato agli esseri umani e in quanto tale sono un fenomeno che ha un inizio e che ha una fine. Dobbiamo capire qual è il contributo che tutti noi possiamo dare per creare degli argini efficaci verso l'avanzata di questi fenomeni e degli scivoli rapidi per la loro discesa verso la fine. Grazie ad Umberto Ambrosoli, che era in diretta con la puntata odierna di Controluce. Moltissime e ci fa ben sperare moltissimi gli sms sulla figura di Ambrosoli. Che cosa rimane, si chiede Pippo, la vergogna di essere siciliano, italiano, di vivere senza speranza per il futuro dei miei figli. Oppure un altro ascoltatore o ascoltatrice che non si firma dice: un uomo solo Ambrosoli, un esempio di responsabilità e di rettitudine civile e morale. E poi Licia, Giorgio Ambrosoli un mito, un esempio, conosciuto il figlio, letto il libro del figlio, è sempre presente nella mia memoria. E un altro ascoltatore: ci sono invidie diverse, spesso sono in quel che non abbiamo nei confronti di chi ama, non si può avere tutto. La cosa negativa è che a volte con questa classe politica ben poco, che cosa rimane? Servono a poco se non a niente intitolare a persone come lui piazze o strade, ma solo questo diventa un alibi della nostra vita. Riescono a fare non avendo né la capacità, dice il nostro ascoltatore, né la volontà di proseguire quel percorso. Da Ambrosoli, pagato caro. A risentirci domani alla stessa ora, alle 13:30, per una nuova puntata di Italia in controluce.